tanti di più. In questo documento, che sarebbe bene che tutti quanti leggessero, è facile vederlo, basta, a parte che lo possiamo dare noi, ma basta andare su internet e scrivere informe della Commissione dei diritti umani Nicaragua, e viene fuori come primo documento questo, si fanno alla fine delle raccomandazioni, per essere sintetico mi limito a quelle, dalle raccomandazioni si capisce ciò che ha constatato la Commissione. Prima raccomandazione, cessare immediatamente la repressione contro i manifestanti e far cessare la detenzione arbitraria di chi ha partecipato alle proteste. Cioè un primo fondamentale diritto, che è il diritto di esprimere una protesta, ossia la propria opinione, la propria valutazione critica su ciò che un governo fa, è stato immediatamente represso. Rispettare e garantire il pieno esercizio del diritto alla libertà di espressione, alla riunione pacifica e alla partecipazione politica. Creare un meccanismo di indagine internazionale e perciò indipendente che stabilisca a certi fatti e stabilisca la responsabilità di ciò che è successo in Nicaragua dal metà aprile in poi. E poi una serie ovviamente di altre raccomandazioni: garantire la vita, eliminare ogni forma di maltrattamento e di tortura, procedere contro i responsabili dell'uso sproporzionato della forza. Che ci sia stato un uso sproporzionato della forza, voglio dire, è di facile constatazione. Al 21 maggio, mentre si parla di 74 morti tra i manifestanti, si parla di 2 poliziotti uccisi. Già questo numero di per sé è emblematico di ciò che è accaduto. Recentemente, ahimè, la stessa considerazione abbiamo fatto per ciò che riguarda le repressioni da parte di Israele nei territori occupati rispetto a decine e decine, centinaia di morti tra i manifestanti, 1, 2, 3 poliziotti uccisi. Non è che vogliamo fare il bilanciamento delle vite, ma solo per indicare che c'è una evidente sproporzione, per cui non c'è nessun elemento nelle manifestazioni di protesta che possono minimamente giustificare la repressione. Sì, se ci basterebbe abbassare, perché sottofondo va benissimo, anche perché devo dirvi che le immagini viste e questo sottofondo mi riportano ad anni passati, a visite fatte in Nicaragua, a una serata di felicità proprio insieme al gruppo di Godoy nella loro nella Pegna, e mi porta allo sforzo che tanti di noi hanno fatto, e dopo qualche anno, termino con questo racconto personale, quando Ortega aveva perso le elezioni nel 90, sono andato in Nicaragua nel 92, il Presidente della Repubblica era Violeta Chamorro, e ero ospite richiesto da PNUDE per una serie di corsi ai magistrati, e le Nazioni Unite ci avevano messo a disposizione una macchina per gli spostamenti in Managua, che non sono proprio agevoli, diciamo così. E dopo una settimana, a conclusione del lavoro, con l'autista abbiamo fatto un giro per tutta la città. L'autista era sempre lo stesso, per cui dopo una settimana avevamo fatto anche un po' di amicizia, ridevamo, scherzavamo insieme. Era un ragazzo molto pronto all'allegria e al sorriso. A un certo punto l'ho visto completamente rabbuiato, molto triste e preoccupato che fosse accaduto qualcosa. Gli ho chiesto: ma che ti è successo? E dice: guarda, vedi, stiamo camminando attorno a un grande muraglione. Questo grande muraglione recinta la residenza dell'ex presidente Ortega. Noi avevamo confidato nel riscatto di indipendenza del paese, nel riscatto sociale, nell'uguaglianza, nella Costituzione. Il risultato è, a questo punto, che la famosa pignata, cioè la spartizione di alcuni beni confiscati che dovevano rimanere beni pubblici, sono stati divisi tra alcuni esponenti del governo che poi aveva perso il potere. Questo è toccato all'ex presidente Daniel Ortega. E questo ragazzo, che io avevo per una settimana visto allegro, sorridente, un ragazzo di circa, un uomo di 30 anni che aveva combattuto peraltro, ha cominciato a piangere come un bambino. Quella speranza e quel sogno che oggi vediamo tradursi in questa terribile tragedia, già nel 90 e 92 era diventato un motivo di rammarico, motivo di pianto, di disperazione per tutti quanti quelli che si erano impegnati per un cambiamento contro il regime precedente di Somoza. Ecco, ho voluto dire queste cose per mettere subito in chiaro che non abbiamo nessun pregiudizio negativo verso la rivoluzione sandinista, verso il tentativo che questo piccolo paese ha fatto per liberarsi dall'ipoteca di essere il cortile di casa degli Stati Uniti, così come si diceva a quei tempi. E anzi, solidarizzando con quel conducente che piangeva su ciò che era accaduto, siamo stati anche noi tra quelli che hanno sostenuto questa battaglia e che magari non hanno pianto perché siamo un po' più vecchi di quel ragazzo, ma quelli che hanno creduto effettivamente che lì potesse cambiare una società e un mondo. E tutti questi, quelli che stanno a questo tavolo, credo che ripercorreranno almeno emotivamente queste poche cose che ho detto, anche se sono molto più informati di me e vi diranno molte più cose di me per ciò che è successo in questi anni. Grazie a voi e passo la parola a Claudia Fanti. Buonasera a tutte e a tutti. Una breve introduzione e poi passerò subito la parola ai nostri relatori. Diciamo che per almeno 15 anni l'America Latina è stata il laboratorio per eccellenza di sperimentazioni antisistemiche. In America Latina è nato il Forum Sociale Mondiale, il bilancio partecipativo, si è sviluppato il dibattito sul socialismo del XXI secolo, quando ormai la parola socialismo era veramente caduta in disuso, ancora meglio sull'ecosocialismo. E si è fatto sognare i movimenti di tutto il mondo con un modello alternativo come quello del buen vivir dei popoli andini. E si è persino messo a punto forse il più originale e innovativo modello di integrazione, quello dell'ALBA, l'Alleanza Bolivariana delle Americhe, di cui il Nicaragua fa parte. Ecco, tutta questa spinta propulsiva, innovativa, si è però man mano gradualmente esaurita. E, diciamo, sia per effetto degli errori dei diversi governi progressisti, che al di là, diciamo, dei discorsi, delle parole, delle invocazioni alla Pachamama, della retorica del socialismo, poi concretamente hanno rinunciato ad avviare una seria transizione verso un modello alternativo di civiltà e anziché mettere a punto, iniziare la costruzione di una società ecosocialista, hanno poi di fatto intensificato un modello estrattivista, quindi riportando oppure conservando, a seconda dei casi, l'America Latina, i paesi latinoamericani hanno un ruolo di fornitori di materie prime sul mercato internazionale senza valore aggiunto, secondo le esigenze del mercato internazionale e senza nessun riguardo per gli ecosistemi. E un altro po' sotto, diciamo, la controffensiva via via sempre più furiosa degli Stati Uniti, che dopo aver perso molto terreno in America Latina, sia per distrazione propria in quanto per le note vicende del Medio Oriente, sia proprio per il protagonismo dei governi progressisti, hanno cercato di recuperare questo terreno soprattutto a fronte del peso crescente in America Latina della Russia e soprattutto della Cina. Ecco, in questo contesto il ruolo del Nicaragua è un po' particolare, perché è sempre stato considerato tra i paesi progressisti, appunto era uno dei paesi dell'Alba, che riuniva proprio, diciamo, i governi più di sinistra, quelli che avevano, diciamo, tentato maggiormente delle, proprio un inizio di transizione verso qualcosa di diverso, insieme al Venezuela, la Bolivia, l'Ecuador e l'Honduras prima del golpe contro Zelaya. Però in realtà di progressista il governo Ortega ha avuto fin dall'inizio molto poco. Il problema è che dopo essere stato appunto per tanto tempo un'icona della sinistra, in realtà già ben prima che Ortega tornasse al potere c'erano ben poche tracce di quella rivoluzione sandinista che aveva fatto innamorare la sinistra di latinoamericana e di tutto il mondo praticamente. Una rivoluzione tra l'altro dai tratti originali, perché aveva avuto anche un forte coinvolgimento dei cristiani, pensiamo ad esempio a Miguel Descoto come ministro degli esteri, ai fratelli Ferdinando ed Ernesto Cardenal, rispettivamente ministri della cultura e dell'educazione, i quali avevano capito, avevano pensato che proprio per responsabilità dovevano dare un contributo al governo rivoluzionario a fronte della tragica mancanza di quadri intellettuali del paese per l'analfabetismo endemico in cui il Nicaragua era precipitato sotto la sanguinaria dittatura di Somoza, e che non erano stati perdonati per questo dal Vaticano, che incurante delle macerie morali e materiali in cui era ridotto il paese ha finito per sospenderli a divinis. Forse tutti noi ci ricorderemo l'immagine terribile di Ernesto Cardenale in ginocchio davanti a Giovanni Paolo II in visita al paese nell'83 e il dito puntato del Papa con una faccia arcigna che non ha riservato neanche a Roberto Dobuisson, il mandante dell'omicidio di Romero, quando è passato per El Salvador. Ecco, però diciamo già dal 90, appunto dalla caduta della rivoluzione sandinista, proprio la pignata e tutto, già c'è stata una chiara involuzione. Tanti dei dirigenti sandinisti hanno lasciato il fronte in polemica con la gestione autoritaria del partito da parte di Ortega, il quale poi è stato veramente disposto a tutto per riconquistare il potere, al punto da votare per eliminare l'aborto terapeutico in Nicaragua, per far contente le gerarchie ecclesiastiche che tanto lo avevano avversato negli anni della rivoluzione. Ecco, quindi quando poi è cominciata la ribellione contro la riforma previdenziale, diciamo che quella è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso di uno scontento, di un'insoddisfazione che comunque montava già da molto tempo. Ecco, io darei subito la parola a Patrizio Crancio, che ha preso parte, così si pronuncia? Crancio? che ha partecipato alla rivoluzione sandinista per tutti gli anni Ottanta, poi se n'è allontanato appunto in sintonia con molti altri dirigenti sandinisti negli anni 90, e è stato attivo nella cooperazione internazionale, conosce l'italiano perché qui ha studiato, e a lui vorrei chiedere un po' le cause, i problemi concreti che hanno portato a questa ribellione e anche, diciamo, le prospettive future, i modi in cui si potrà uscire da questa situazione. Grazie. Non bisogna toccare il microfono, altrimenti ci sono dei rumori fastidiosi. Ecco, grazie. Buonasera a tutti. Io cercherò di concentrarmi in tre aspetti basicamente. E penso che più o meno le immagini vi hanno dato un'idea di quello che succede, insomma, poi ognuno ha un po' di informazione per la propria via, ma penso che è meglio cercare di chiarire, perché ho fatto sondaggi che molta gente non capisce che è successo e nel sistema politico di Nicaragua. Qual è l'origine? Come questo cambiamento dalla notte al mattino? Perché? Però prima di quello, per complementare un po' quello che abbiamo veduto, ho fatto degli estratti di una lettera pubblica di Gioconda Belli, che è la più grande poetessa del Nicaragua, che ha fatto circolare pubblicamente nel mondo domenica, perché sabato sono successi delle cose, delle peggiori che sono successe, insomma, a livelli di violenza. E questa lettera è diretta a Rosario Murillo, che è la vicepresidenta, moglie del presidente, perché adesso in famiglia siamo il presidente, la vicepresidente, il ministro, eccetera. E lei, Rosario, pure era, direi, perché veramente da anni non scrive, e prima faceva delle belle poesie erotiche, direi pure, e alla fine della lettera, c'è qua la lettera, però in spagnolo, se ve la volete prendere dopo, e le dice praticamente: Rosario, guarda che io non avrei mai pensato che la tua poesia fosse finita insanguentata, insomma. E allora, per iniziare, e poi alla fine farò una sintesi di probabilmente tre scenari che sono quelli che più girano tra gli analisti e gli accademici di che cosa può succedere. Non sappiamo che succederà. Ma almeno ci abbiamo un'idea che qualcosa di quel genere succederà. E farò una traduzione di questi paragrafi un po' in italiano ogni tanto. Le dice Rosario: certo che la tua politica di comunicazione, da che sei arrivata al governo, è stata retta dalla massima di quello che una bugia ripetuta tante volte diventa realtà. Per 11 anni hai sembrato dei venti in questo paese, convertendo a chi non era d'accordo con te in vili avversari e proclamando una patria solidaria che non esiste soltanto nella tua immaginazione. Però hai sembrato venti e mo i risultati sono le tempestà. E le bugie sono state un disassierto, un fallimento. Non hanno successo. Sì. Ora tutte le tue bugie ti perseguitano come formiche nere che vanno dietro a te. Però lo spettacolo della verità fatta bugia non cessa. Che orribili giorni sono stati questi di morte tra morti, polizie comandando ai paramilitari, giovani scomparsi, picchiati, tanta violenza ha finito ieri, è questo che volevo parlare, cioè sabato. È finito ieri in un dantesco e tristissimo incendio dove è morta una famiglia intera con bambini piccoli e dove la gente è fuori controllo, ha bruciato a chi ha considerato colpevoli. Cioè la gente nel quartiere ormai non ce la fa più e non c'è chi controlli più a nessuno. Durante questi 11 anni hai pronunciato con ossessiva costanza discorsi appiccicosi di amore al Nicaragua e di amore a questo popolo. Sei stata a ordinare e disordinare il governo, violentando la nostra libertà e la nostra democrazia, però la verità ha la sua maniera di venire fuori. L'ultimo sondaggio d'opinione di Sid Gallup registra che il 70% della popolazione vuole che venga andate. Guarda come dalla notte al mattino sono usciti i veri sentimenti del popolo nicaragüense quando persa la paura si sono sono stati disposti a parlare la verità dei loro cuori. Lasciami ricordarti che la picchiata che gli avete dato, che i vostri ragazzi vecchi le hanno dato agli altri studenti che abbiamo tutti visti in vivo e a tutto colore, è stato quello che ha scattato la ribellione. Nicaragua vuole la pace, però con queste pericche che te fai, questo è costato più di centinaia di morti e più di migliaia di feriti, decine di scomparsi che ancora non sono stati risolti. Non è la prima lettera che ti scrivo, Rosario. La tua mania per tergiversare, è corretto, le cose e la tua abilità per torcere la realtà è stata testimone più di una volta. Ammetto che non ho mai pensato che il potere distruggere tan assolutamente la tua poesia, che la donna a cui gli ho dato rifugio nel passato, questo è nel 78-79, che era il Gioconda in esilio in Costa Rica, e Daniele e Rosario erano pure lì, e hanno fatto finire non solo il vostro presente, ma anche il vostro futuro. Né te né Daniel passeranno alla storia, nella pagina colorita e magnifica che te ti sei immaginata. A voi, nella storia, né il popolo vi assolverà mai. Insomma, questo è scoppiato in base ai successi di sabato, che, come vi dico, dimostrano che ormai tutto è fuori controllo. Vabbè, e poi vedremo un po' qual è l'origine di questi problemi. D'accordo a una serie di informazioni, si concentrano in tre problemi fondamentali che veramente sono successi quest'anno. Uno stato che il governo voleva controllare tutto il sistema delle reti sociali, e quello soprattutto agli studenti li ha fatto scoppiare, insomma. Questo è una. Poi il fatto che quando si è bruciata la riserva Indio Maíz, che è vicino alla frontiera col Costa Rica, il governo non ha fatto assolutamente niente per spegnere il fuoco. Anche se Costa Rica, Colombia, Messico, Stati Uniti hanno detto guardate, possiamo dare una mano, non hanno fatto niente. Che significa questo? Non hanno fatto niente perché loro stanno sfruttando il legno di quella zona e non volevano che la gente se ne accorgesse. E poi è venuta la questione della prevenzione sociale. La questione della prevenzione sociale è stata la goccia finale perché il bicchiere scoppiasse, insomma. Però è un fatto strano. Come mi spiegate voi che c'è una riforma della prevenzione sociale, che vanno per strada sono gli studenti che non hanno prevenzione sociale, insomma, qua c'è un assurdo in un qualche modo. Allora, il fatto è questo, che a questo punto, dopo una serie di fatti che sono successi, non solo questi due, io poi nominerò una quindicina, ma io so che sono 40 problemi da risolvere, e non c'è logica, questo non c'è logica, cioè è un problema della prevenzione sociale che gli studenti vanno a guardare le manifestazioni. Il fatto è che lì c'è un cambio, le manifestazioni erano focalizzate per il tema, per il momento, eccetera. Questa manifestazione del 18 aprile, mi sembra che è stata la prima, è ormai una manifestazione politica. La prevenzione sociale solo la giustifica, perché di fatto sin dal primo giorno quello che si sta dicendo è: Daniele Ciaio, andatevene. E poi la cosa si va complicando. Però io vorrei fare un riassunto, perché ci sono 40 problemi in Nicaragua, che magari fossero questi tre che sto nominando. C'è il problema delle elezioni, significa devi cambiare tutto il sistema elettorale, e questo richiede tempo. Devi cacciar via a tutti i membri del sistema elettorale, devi mettere nuova gente, devi addestrare questa gente, cioè qua parlare di elezioni in 6 mesi è ridicolo, è assurdo, perché tra l'altro i partiti politici sono quasi spariti, per cui gli devi dar tempo a riorganizzarsi per poter fare tutta la parte burocratica del processo e pure loro fare il loro lavoro nel territorio. Vabbè, poi c'è il problema dei sindacati. I sindacati sono venduti al sistema, per cui bisogna rivedere la situazione dei sindacati. C'è il problema della Procura Generale della Repubblica, c'è il problema della Costituzione, che la Costituzione tra l'altro non è che si è fatto solo dal governo sandinista, lì ci sono stati alleati nei contenuti il settore empresariale, che oggi il settore empresariale è dall'altra parte nelle manifestazioni. Poi c'è il serio problema della Corte di Cassazione, che non funziona affatto, c'è il problema della polizia, che ecco i risultati. C'è il problema dell'esercito, che perché non interviene l'esercito, per esempio, è una domanda, perché hanno interessi comuni col sistema. Oltre l'esercito c'ha dei fondi a New York, nella borsa, e non vogliono mettersene in contro degli Stati Uniti, perché li possono mettere nell'elenco di quelli che le tolgono i soldi, insomma. Poi c'è il problema della Controlleria Generale della Repubblica, un problema ancora più grave, perché lì c'è la pignata e tutta la corruzione di proprietà, che io chiamo la cacocrazia, che è la controlleria della proprietà, sia particolarmente dei beni immobili, sia case, edifici, terre, eccetera. E lì c'è stato un grosso caos, quello bisogna rifarlo. Poi c'è il caso del Ministero del Lavoro, stavo vedendo dei dati che in un certo periodo di 100 casi presentati al Ministero del Lavoro, 95% è stato a favore della patronale. E te dici che sei un governo che difende i poveri, i disgraziati, eccetera, demagogia, eccetera. Poi c'è il caso della Maquila, che in quel programma alla televisione Giorgio c'è andato, si è parlato della maquila perché è una situazione tremenda di condizioni lavorali, con la storia che danno 120-130 mila posti di lavoro. Però quello che rendono le maquile, che sono esente da tasse locali, non è nemmeno il 10% dei monti che arrivano dall'estero dai migranti. Poi vediamo certi dati di problemi reali della vita quotidiana della gente. Parleremo della previdenza sociale, per esempio. La legge quello che voleva è, in due anni, da qui al 2020, passare la quota dei lavoratori dal 6,25 al 7%, passare la quota della patronale dal 19 al 22,5, cioè passare dal 25,5% in totale sul tuo stipendio, passare al 29,5%, cioè più del 15%. Ridurre in 5% le pensioni, con la storia che questo 5% si userà per salute. Io, che sono pensionato, non vado mai lì perché se sono malato mi ammazzano solo di entrare all'ospedale e delle condizioni in cui siamo. Per cui a regalare un altro 5%. Imporre le tasse. Noi, come negli Stati Uniti, non ci abbiamo tasse sulla pensione. Adesso, per esempio, la mia pensione le metterebbero il 30% di tasse, per cui perderei 30 più 5 che va a salute. Grazie, meglio non me ne dare niente. E poi farebbero un nuovo calcolo. Attualmente il calcolo, quando uno ha la pensione, dice che il massimo che te puoi avere è l'80% di quello che era il tuo stipendio riportato. Adesso lo vogliono far scendere al 70% e quindi scendere tutto il sistema di calcolo della tavola d'accordo a anni lavorati, stipendi, eccetera. Questa è un'immagine generale. Poi l'altro è il problema dei salari. La canasta basica costa intorno ai 450 dollari. Questa canasta basica sono gli alimenti, e include la casa, eccetera, per 4 persone. Basico, super basico, cioè per non entrare dentro la povertà. 450 dollari. Il salario minimo oggi in Nicaragua è di 165 dollari, che è quello che guadagna approssimatamente il 60% della forza lavorale che lavora. Poi andiamo a vedere chi lavora e quanti sono. Più del 60% dei pensionati ricevono o il salario minimo o meno del salario minimo. Stiamo parlando che ci avrei bisogno a casa mia per mantenere 4 persone di almeno 2 salari e mezzo minimo. E come faccio? E queste riforme dell'INS, tra l'altro, che la sicurezza sociale solo copre il 24% delle persone in età. Ma vi spiegherò perché la previdenza sociale solo copre quello. Con queste misure il settore più colpito sarebbe la piccola e mediana impresa. Ecco. Questi sono dati generali per darvi un'idea di qual è la vita quotidiana della gente. Poi, mi ero dimenticato, un altro grosso problema che ha fatto grosse manifestazioni basicamente non a Managua, ma in campagna, è stata la faccenda del canale interoceanico. Non so se avete sentito la storia che faranno il canale interoceanico, che sembra un sogno, ma piuttosto è un incubo. E poi termine della corruzione, che io chiamo la criptocrazia, una delle cose che funziona benissimo è le concessioni a enti stranieri. Adesso, poco fa, erano le manifestazioni incontro alle concessioni miniere. Ce n'era prima il grosso dibattito sulle concessioni forestali, le concessioni di pesca, eccetera. Basicamente sarebbe quello, entrerei alla fase finale dei possibili scenari. I scenari, se ne parla di tre scenari finali. Ovviamente, come al solito in questi calcoli, poi va a finire che nessuno dei tre è corretti. Vabbè, uno è che Daniel dice: io non me ne vado, sto qua. Finisce come ha fatto Mugabe gli ultimi 20 anni, insomma. Il secondo è che dice: vabbè, accetterei, però non adesso, se no lasciamo finire il periodo finisce, penso, nel 21, qualcosa del genere. E intanto io, sì ragazzi, mi fa piacere, vi do una mano e mi incarico di organizzare le elezioni. A quali elezioni? Con questo Consiglio Supremo Elettorale, eccetera. E io non rinuncio, e io però, vabbè, sono bravo, farò un governo di transizione. Qualcuno specula che questo scenario sarebbe appoggiato dagli Stati Uniti. Io non penso che nemmeno gli Stati Uniti appoggerebbero una questione così. Il terzo scenario, che è quello che molta gente vede molto più realista, anche molto più complesso, perché questo crea una casa di Pandora e non sai che ti saldrà dopo da questa situazione, che sarebbe che, dovuto alla pressione, Ortega accetta di abbandonare il potere, e con una grossa differenza, a differenza di Mugabe ce ne aveva un secondo, e la poca struttura che c'aveva di partito e di potere, almeno il secondo è rimasto e può continuare. Però lui dice: io rimango qui perché posso rimanere, perché c'è un secondo al potere e in qualche modo posso vivere qua. Là non può succedere quello, perché lì non c'è un secondo, perché la seconda era sua moglie. E poi si fa un governo di transizione. Se ne specula di 4-5 gruppi che dovrebbero stare rappresentati, e ovviamente gli empresari, gli accademici, la società civile, e soprattutto molti parlano di, a parte gli empresari, il gruppo più legato a quello che produce il Nicaragua è basicamente l'agricoltura, insomma. Però se ne parla di 4-5 che potrebbero fare il ruolo di transizione. Questo implicherebbe, con questo governo di transizione, entrare immediatamente a lavorare sulla Corte Suprema di Giustizia, il Consiglio Elettorale, e rivedere la situazione dei sindaci che sono stati involucrati con la repressione, e entrare a intervenire tutte le controllorie che ci stanno, la Fiscalia Generale della Repubblica, la Polizia, eccetera. Insomma, questi sono, ci sono i documenti dopo che io metterò lì, però sono in spagnolo purtroppo. Chi sono quelli che perdono in questo affare? Secondo me ci stanno tre fondamentalmente. Il popolo prima, cioè a noi ci è costato ricostruire il Nicaragua questi 40 anni, per appena arrivare a avere un ingresso per capita che nemmeno arriva agli $800 del 78, perché adesso è 1200-1300 a testa, 1300 ad oggi non sono 800 di 40 anni fa. Cioè, per cui qua c'è è un andare indietro in maniera pazzesca in termini di sviluppo. Cioè, è il primo che perde il popolo, il secondo è l'FSLN. L'FSLN ha già perso perché più di metà della popolazione che sta nelle manifestazioni è gente dell'FSLN che hanno appoggiato e votato per Daniele Ciaio. Questo sta frammentando il partito e rifare un partito della categoria che è stato l'FSLN non è facile in due giorni. Il terzo grosso perdedore è la polizia. La polizia, cioè, ha fatto un ruolo tremendo e deve essere totalmente intervenuto, insomma. Io lascerei qua e passo la parola a Giorgio. Sì. Ho già due domande per te, Patrizio, però... Grazie, io stavo... Però prima volevo soltanto dire che mi sembra significativo che già nel 2009 al Forum Sociale Mondiale di Belém, in Brasile, nell'Amazzonia brasiliana, in occasione dello storico incontro dei movimenti popolari con i presidenti progressisti, non venne invitato Ortega. Soprattutto per l'opposizione della Marcia Mondiale delle Donne. Però ecco, già appena due anni dopo la riconquista del potere da parte di Ortega, molto significativo che in quella sede Ortega non venne invitato. Ecco, io a Giorgio Novelli, che ricordiamo è fotografo, ha collaborato con la rivoluzione sandinista, in particolare con la componente cristiana della, sì, con i ministri, con i cardenal, ecco, gli vorrei chiedere un po' di ricostruire questa involuzione della rivoluzione sandinista. Sì, grazie Claudia, buonasera a tutte e a tutti. Sì, in effetti l'Ortega che io ho conosciuto, o il Frente Sandinista che ho conosciuto nel 79, a quello che adesso è proprio nada che vedere, un'altra cosa. 40 anni fa facemmo un incontro, cioè occupammo l'ambasciata del Nicaragua e abbiamo fatto una conferenza stampa mettendo la bandiera rossa e nera sul tavolo. Anche noi avevamo i fazzoletti rossi e neri. Oggi è la bandiera del Nicaragua che mettiamo perché colpevolizziamo Ortega di avere anche, oltre ai 200 morti che ha sulla coscienza, anche di avere tradito i valori del sandinismo, i valori di quella bandiera rossa e nera per cui molti di noi hanno, soprattutto quelli che sono morti, iniziando da Carlo Fonseca, no? Il fondatore del Frente Sandinista, e tutti quelli che abbiamo creduto in quegli anni, in quella veramente una rivoluzione che, stando lì, vedevi proprio tutti i partecipi, era un cambiamento. E adesso io credo che Daniel Ortega ha distrutto il Frente Sandinista, non esiste più come Frente Sandinista, esiste i valori del sandinismo, l'ideologia per cui si è fatta quella rivoluzione nel 79 ancora sono validi, per cui quelli che si riflettono adesso in questi giovani, questo Lester Alemán, un ragazzo che dice direttamente a Daniel Ortega: tu in un mese hai fatto peggio di quello che Somoza ha fatto in 30 anni, è di un valore, lui è veramente un figlio di Sandino. Questi ragazzi che sono morti direttamente sono i veri sandinisti. Cioè che Ortega e i suoi pochi che ci sono intorno, che ormai non hanno niente che spartire con sandinismo, e loro nelle loro manifestazioni mettono la bandiera del Frente Sandinista, e però non è proprio un'ipocrisia e un approfittare dei valori molto sentiti, perché questi ragazzi poi i loro genitori hanno combattuto con Ortega, hanno fatto la rivoluzione del 79, cioè sono cresciuti comunque con ideali del sandinismo. E lo stesso Carlo Mejía Godoy, che abbiamo sentito la sua canzone in memoria degli studenti, ha proibito ad Ortega di cantare negli atti l'inno del Frente Sandinista che lui scrisse negli anni 79, che in tutte le manifestazioni prima si cantava l'inno del Frente e l'inno nazionale del Nicaragua. E questo è Ortega, ha trasformato Nicaragua in un suo paese dove l'ha venduto alle imprese straniere, ha svenduto il paese, lo ha sia questa impresa cina che per cui per 50 anni gli ha dato la concessione per costruire questo canale interoceanico, che ha implementato, certo, non, lui seguendo le politiche neoliberaliste di Alemanne, con cui si è alleato nel 2007-2008 per essere eletto, ha rafforzato comunque questa concentrazione, e creando anche delle situazioni di aiuti, però il problema basico che come si risolve? Dando lavoro alla gente e un lavoro dignitoso, uno stipendio adeguato. Vediamo che gli stipendi sono proprio minimi e non si risolve regalando, facendo dei regali ogni tanto o dando una politica paternalista o che lui ha fatto per avere l'appoggio che in realtà aveva nel 2007-2008, è stato votato poi nella rielezione, però che adesso ha mostrato la sua vera indole. Per questo tutti i dirigenti del sandinisti sono andati via, da Luis Jaime Willock, comandante Modesto, Henry Ruiz, per cui è rimasto praticamente solo con Bayardo Arce, che è uno dei nove comandanti che erano all'inizio con lui. Però si è concentrato tutto la sua potere, e per questo io credo, cioè, vabbè, io alcune cose... Il Frente Sandinista ha perso già da anni, non è adesso che ha perso, non esiste, è da ricostruire tutto. Questi ragazzi, ma non solo loro, perché non crediamo che siano solo gli studenti. Già l'anno scorso, nella Matagalpa, a León, cioè non è solo Managua che questa rivolta si è iniziata, cioè tutto il paese, e questo è interessante, e che a cui si sono uniti i contadini, il movimento contro il canal, formato appunto, ci sono leader Francisca Ramirez, una donna che ha cui hanno iniziato già a espropriare le terre con la scusa di creare questo canale che mai si creerà, però hanno espropriato le terre ai contadini che si sono organizzati e marciano, hanno già da 2 anni fa iniziato delle marce represse dalla polizia, e così anche tutta la popolazione, insomma, adesso si è unita. È interessante anche il ruolo anche della Chiesa, che sta svolgendo come mediatore, Silvio Baes, che abbiamo visto, l'arcivescovo, che è veramente di una Chiesa che poi da distinguere da quello che era Michele Obando Bravo, che era cui invece molto, molto amico di Ortega, che lo ha fatto anche, gli ha celebrato le nozze con la Rosario Murillo, e che adesso è morto, era stato nominato, non so che, una carica, insomma, però che è stato il primo osteggiatore alla rivoluzione sandinista già del 79, il primo fautore dell'intervenzione della contra in Nicaragua, e sempre molto ostile al Frente. Per questo un po' insomma, io poi non voglio dilungare, perché mi interesserebbe anche molto sentire anche un po' quello che è gli interventi anche di grazie per tutti che siete venuti, insomma, perché ci veramente Nicaragua ci addolora quello che vediamo e sentiamo ogni giorno. Ci sono state anche vittime, è vero, anche da parte della alcuni polizia, ma sono tutte da condannare, violenza da chi viene, perché comunque è un movimento, questo è un movimento autoconvocato, non c'è nessuna forza dietro non so, che alcuni dicono che ci sono interessi stranieri o forze della destra, sono spontanei e non hanno nessuna dietro nessun interesse se non la libertà per Nicaragua. Per questo a volte è importante anche, io un punto lo lancio così, perché poi che ogni paese di India America, non America Latina, mi piace più parlare di India America, è diverso da, non possiamo comparare Nicaragua con il Venezuela, né con quello che è Brasile, che c'è stato un golpe blanco, in Nicaragua è totalmente diversa la situazione di quello che è successo in Honduras, dove anche lì c'è stato un golpe. Ogni paese ha la sua storia, il suo cammino, e spetta ai nicaragüensi cercarlo e trovarlo, e mi sembra che hanno dato una lezione di grande coraggio, e che insomma è molto bella per quello che hanno fatto, però purtroppo la tragedia continua e i morti continuano, e questo è da fermare. E noi anche abbiamo scritto anche una lettera, che poi magari vogliamo farci anche diretta all'ambasciata, perché quello che ci richiedono anche dall'interno, amici, cioè, compagni dal Nicaragua, di fare pressione anche sulle ambasciate, anche nella stessa sinistra, che c'è poca informazione, di fare più coscienza. Perché comunque ricordiamoci anche che Somoza cadde sia per l'insurrezione armata del Frente Sandinista, ma perché anche ci fu una pressione, Carter, ci furono delle pressioni internazionali che fecero prima scappare Somoza, che certo gli Stati Uniti volevano un somosismo sin Somoza, e probabilmente una delle cose che Patrizio non ha nominato, ma che probabilmente anche appuntano a quello gli Stati Uniti, un orteghismo sin Ortega. E però non lo vogliono. L'Alleanza Civica per la Giustizia, la PA, non vuole, c'è un cambio e che si ristabilisca la democrazia in Nicaragua. Sì, grazie. Allora, prima di passare la parola a voi, volevo fare io due domande, ma prima una precisazione, perché avete sentito parlare di canale interoceanico, non so se tutti sanno che cos'è. Praticamente è un progetto monumentale, diciamo megalomane pure, che distruggerebbe una riserva di biosfera unica e prevederebbe la costruzione di un canale di navigazione di 270 km e passa, e quello di Panama vi ricordo che è di 70 km, quindi è veramente un'opera colossale che probabilmente non si farà mai, proprio perché per la complessità dell'opera. Però il problema è che è stata già data una concessione di 50 anni a un'impresa cinese presieduta da un tale Wang Jing, con la possibilità di rinnovo di altri 50 anni, per cui oltretutto al governo per 100 anni entrerebbe solo l'1% delle azioni, quindi praticamente nulla. E il problema però è che esiste già la legge che prevede proprio la totalità di diritti per l'impresa senza alcuna responsabilità amministrativa e penale, tant'è che già sono cominciate, come ci ricordava Giorgio, le espropriazioni di terreni, per cui questo progetto folle in realtà poi sta già producendo danni e ha già suscitato le proteste, sono state le prime proteste contro il governo Ortega. Allora, la prima domanda che io volevo fare era che costa a molti accettare questa situazione, proprio anche per un discorso affettivo riguardo alla rivoluzione sandinista, e si è creato anche un parallelo tra le guarimbas venezuelane, cioè queste bande criminali in Venezuela che hanno fatto enormi danni, tante violenze e tanti morti contro il governo Maduro, e le proteste nicaragüensi. Ecco, non è assolutamente, al di là del fatto che Giorgio ha ragione, che ogni paese ha una storia unica, sicuramente la situazione non è assolutamente comparabile, però ecco, molti si domandano, ma in tutto questo, soprattutto considerando il particolare contesto latinoamericano attuale di questa controffensiva delle destre un po' ovunque, le destre che fino adesso hanno governato, sono andati d'amore e d'accordo con Ortega, che ha appunto imposto un modello sicuramente funzionale al grande capitale, no? Basato appunto sull'industria maquiladora, sulle zone franche, su tutte le agevolazioni alle imprese coreane, taiwane, statunitensi, sicane. Ecco, però le destre adesso che gioco stanno giocando? Cosa vogliono? Ovviamente vorranno sicuramente prendere il controllo della situazione. Ecco, quindi la prima domanda è questa, del ruolo delle destre. E faccio le domande a tutti e due. La seconda domanda è appunto questa distinzione tra orteghismo e sandinismo, e a fronte ovviamente del grande discredito che la rivoluzione sandinista ha avuto e sta avendo in Nicaragua tra la popolazione, se è possibile riscattare il sandinismo depurandolo dall'orteghismo. Allora, prima Patrizio. Vabbè, sempre mi passi i problemi. Esatto. Questa è un'opinione personale di quello che uno vede lì, insomma. Ma basicamente, parlare di una destra strutturata in Nicaragua non l'ho mai né vista né concepita come tale, perché lo spazio è così insignificante che nemmeno ti puoi sviluppare. Sì, c'è un caso che possiamo prendere, il caso del Partito Liberale con Arnoldo Alemán, che Arnoldo Alemán potrebbe essere il Berlusconi nicaragüense. Che c'hanno 15% nelle ultime elezioni, il secondo partito in Nicaragua, però non ci vedo io, una strutturazione così che un temore, il pericolo della destra domani, insomma. Gli altri partiti sono gruppuscoli e poi dipende dal punto di vista di quali sono i patroni che ti dici che cosa è destra, che cosa è sinistra, eccetera, perché te senti, molti parlano del governo di Violeta Chamorro come un governo di destra. Io mai in vita mia avrei usato quel linguaggio, cioè io avrei detto un governo di centro, perché tra l'altro era un gruppo di 14 partiti politici. E gli altri non contano, non sono significativi, cioè la base sociale è minima, se hanno presenza nel territorio è limitato, e per cui nemmeno ci hanno avuto la capacità di quello che succede in Venezuela, che sì, le manifestazioni, che ci va dietro sono i partiti politici e gli Stati Uniti attraverso i partiti politici, qua non c'è stata la possibilità. Questo almeno è il mio modo di vedere la Costituzione. Per l'incapacità della destra, in gran parte l'incapacità della destra, è quello che ha permesso di crearsi questa situazione. Ottimismo e sandinismo. Io volevo che chiarire due cosette. Uno è che è molto difficile, soprattutto fuori, di far la differenza o l'interpretazione della differenza tra orteghista e sandinista. Noi tra amici, quando parliamo, scherziamo, e te li dice all'altro, che ti dice io sono sandinista, no figlio mio, ubicate, te sei orteghista, mettiti al tuo posto e non confonderci a noi con voi. Non so se lo avete capito, cioè il termine orteghista è venuto dal 1990, dalla Piñata in poi si è incominciato a parlare d'orteghismo, cioè chi è rimasto lì è orteghista, chi ce ne siamo andati, sandinisti. Forse te vuoi... Sì, no, sul ruolo della destra anch'io sono d'accordo con Patrizio, e quello che bisogna certo stare attenti, che probabilmente ne approfitteranno di questa situazione alcuni settori, per settori di destra di come salirsi al carro, no? Subirsi al carro, come se no? Salire sul carro dei vincitori. Sì. Però questo sarà nella capacità, e credo che questa alleanza che si è creata è molto forte, perché poi rappresenta diversi settori, è unita, li ho visto tutti i dialoghi che ci sono stati da ormai quasi un mese, interrotti, ripresi, eccetera, però ho visto sempre un'opposizione che è appunto questa alleanza civica molto unita e coerente con quello che dicono tutti e con quello. E questo anche agli occhi del pueblo della popolazione. Perché queste giornate di dialogo sono trasmesse in diretta, no? In streaming la vedono, e si è visto come invece il governo è rimasto per cui poi manco l'ultima volta che sono stato in Nicaragua, il 2015, e certo già da quel momento era netta la divisione tra l'orteghismo e sandinismo, però io dico che sì, si può riprendere, probabilmente non so se richiamare lo sandinismo come sarà, però perché vedere bruciate le bandiere rosse e nere del Frente, cioè ricostruire il Frente Sandinista come tale, non lo so se ci si riuscirà. Senz'altro, come dicevo prima, ecco, c'è una netta divisione in questi mesi, ultimi mesi, anni, si è sempre più accentuata tra quello che è orteghismo, l'ideologia sandinista. Considerare poi le manifestazioni che convoca Ortega, hanno gli impiegati pubblici, obbligati, che danno festivo e trasportati, ma anche nelle ultime, nel Dia della Madre, dove c'è stato un'altra, il 30 aprile, un'altra assassinato brutale di più di 10, 12, 15 persone in una marcia del Dia della Madre, lo stesso momento che manifestavano più di 1 milione di persone per le strade di Managua, Ortega faceva la sua convocazione, molto meno di quello che generalmente sta perdendo, ha perso, perché considerate che ogni di questi studenti morti, ognuno ha una madre, un fratello, un amico, un parente, e questi che erano sandinisti c'è il dolore per la perdita di un loro parente, amico, fratello, per cui ha perso, e bisognerà, credo, questo compito sarà di ricostruire anche questo, oltre a tutto il sistema giuridico e statale. Grazie. Io avrei altre domande, ma lascio la parola a voi. Prima di lasciarla, Patrizio voleva leggere la lettera all'ambasciata. Abbiamo preparato una lettera che poi la leggo subito e poi vi faccio circolare se volete aderire. Vabbè, c'è l'indirizzo, il nome, eccetera. Gentile signora ambasciatrice, noi sottoscritti, impegnati nei diversi ambiti della vita italiana e nelle diverse correnti ideologiche, politiche e religiose, ma accomunati dall'idea di democrazia, giustizia sociale e rispetto ai diritti umani, sentiamo l'obbligo di esprimere una profonda preoccupazione per la situazione e gli eventi che si sono susseguiti negli ultimi anni in Nicaragua. Si parla di anni, Paese a cui teniamo con gran affetto e ammirazione sin dagli ultimi mesi che hanno preceduto il 19 luglio 1979. 79. Sì. Con questa lettera esprimiamo la più decisa condanna per i livelli di repressione e violenza generalizzati in uso da parte delle forze dell'ordine e gruppi dipendenti in vario modo dal governo in questi ultimi mesi contro i manifestanti, soprattutto studenti universitari, che chiedono maggiore democrazia, giustizia sociale e rispetto ai diritti umani, senza dimenticare le altre componenti della società produttiva, repressioni che hanno causato finora almeno centinaia di morti e scomparsi e migliaia di feriti, nella sua maggioranza per arma da fuoco, secondo diverse qualificate fonti internazionali indipendenti di riconosciuto prestigio. L'alto prezzo in vite umane insieme alla brutale repressione fa sorgere il dubbio che si stia tornando a quel passato che è stato l'origine e ragione a suo tempo del ricambio strutturale per il Nicaragua iniziato nel 79 e che oggi si vede tradito. Le chiediamo, come rappresentante del suo governo in Italia, di trasmettere alle competenti autorità nicaragüensi la nostra preoccupazione per la situazione attuale. In particolare ci permettiamo di segnalare alcuni aspetti che riteniamo fondamentali perché riguardano i diritti universali delle persone. Tre punti. Si dia una spiegazione chiara e imparziale sui crimini causati dalla brutale repressione, sia da parte di organo dello Stato che di altre formazioni, e le ragioni dell'uso di armi chimiche. Si sono usate pure armi chimiche, almeno che io sappia, una volta. Ammazzaglia, sì. Con effetti letali sulle vittime, provvedendo alla dovuta liberazione degli arrestati e ad un chiarimento soddisfacente sui dispersi di queste giornate di protesta, cioè gli scomparsi. Si identifichino e si prendano le dovute misure giudiziarie verso i responsabili di questi massacri affinché non restino impuniti e si riconosca ai familiari delle vittime il diritto di costituirsi come parti lese. Si riprenda di nuovo, vabbè, questo è ieri la seconda volta che smettono, fermano il dialogo nazionale. Si riprenda di nuovo al più presto il dialogo nazionale con tutti gli attori della società, che includa tutti gli aspetti sollevati dai manifestanti e ancora non risolti, cominciando dal porre fine alla repressione con il ritorno della polizia nelle loro caserme, l'eliminazione dei gruppi armati illegalmente formati, assicurando garanzie effettive affinché gli accordi raggiunti siano rispettati, fondando basi solide per iniziare il processo di democratizzazione. Mentre oggi il popolo di Nicaragua, tanto gli studenti come le varie articolazioni componenti della società civile, manifesta il suo scontento e indignazione per un governo che sembra non ascoltare le richieste popolari, chiediamo con fermezza, con la memoria di un importante passato, che in Nicaragua torni subito a promuovere la democrazia, giustizia sociale e i diritti umani. Insomma, facciamo circolare e poi chi vuole può firmare, e se vogliono una copia della lettera qua c'è. Insomma, forse porta di più, così possono scrivere. Sono anche domande. Scusa, ce n'era un'altra domanda che volevi fare. No, ma è... no, adesso no, facciamo parlare. Facciamo, sì. Allora, chi vuole intervenire? Sì, prima lei e poi il signore. Sappiamo dove è finita la lettera, perché loro si sono già schierate. Perché abbiamo saputo che un mese fa si sono riuniti con il ministro degli esteri qua, vice ministro, esatto, e anche del Partito Comunista Italiano. Quindi erano felicissimi. Non lo so, c'era scritto così. Che non esiste, però c'era tanto di articolo, quindi comunque grazie. E noi stiamo facendo anche, organizzando delle attività, perché noi stiamo finanziando un po' al nostro popolo, perché abbiamo bisogno di aiuto, di cibo, di medicine, e anche dei ragazzi che stanno qua in Italia, che sono venuti e che, come sanno che noi stiamo organizzando, ci chiedono aiuto. Quindi stiamo andandole anche, trovandogli un posto dove stare, perché il posto, cioè sono soli, no? E questi stanno proprio scappando, perché ci sono fotografie, numero di telefono, li stanno minacciando, e quindi devono lasciare proprio il paese, perché sennò finiscono come questa famiglia. Grazie. Sarebbe interessante capire questo Partito Comunista Italiano che ha partecipato all'incontro. Di che partito si tratta? Perché per esempio, che ne so, sul manifesto la linea che si sta seguendo sul Nicaragua è molto chiara ed è molto critica nei confronti del governo, quindi per fortuna... su Facebook. E allora io ho scritto Stefano è scomparso da un bel po', da un bel po', che magari se fanno chiamare adesso la Rifondazione può... Rifondazione Comunista. Però questo deve essere veramente una presa in giro. No. Non ci lasciamo ingannare la propaganda, perché è solo questo. No, dice qualcuno, perché c'è un blocco, non sarà un blocco solo per la prima. Il signore Giù. Io penso una cosa, ascoltando Patrizio e tutto quello che ho ascoltato fino adesso. È vero che ogni popolo ha una propria storia, una propria caratterizzazione e una propria popolazione inserita nel contesto geopolitico in cui vive. Però mi pare che Nicaragua viva in maniera non difforme da tanti altri paesi, anche in Europa e nel Parista anche, alcune caratteristiche che sono tipiche di questo momento storico che viviamo. Una è una privatizzazione costante dello Stato da parte di alcuni soggetti. L'abbiamo visto nella privatizzazione dello Stato russo, l'abbiamo visto in Cina, l'abbiamo visto in Corea, l'abbiamo visto in tantissime altre situazioni. Un po' meno, se volete, in Europa, perché l'Europa da questo punto di vista ha una storia, diciamo, un po' più differenziata e poi la conosciamo meglio rispetto ad altri. E spesso questi fenomeni di privatizzazione degli stati e dell'economia di questi stati si sono naturalmente accompagnati a fenomeni di violenza e di autoritarismo. Mi pare che sia evidente come per esempio la Cina oggi ha fatto un passo verso l'autoritarismo molto più significativo rispetto agli ultimi 10 anni, no? Non parliamo della Russia, non parliamo di tante altre situazioni che ci sono. Allora io dico, al di là dei alcuni fenomeni comuni a tutti, l'uso della violenza, no? Che fa male evidentemente, che ci non ridisce, perché noi siamo lontani dal culturalmente e anche come educazione l'utilizzo della violenza per questo. Mi ha colpito quello che diceva Patrizio sul fatto che il partito sandinista ha perso il sostegno della popolazione e l'ha perso probabilmente forse a metà degli anni 90, quando è cominciata questa, se ho capito bene, non so la parola in spagnolo, questa privatizzazione sostanzialmente di parte dello Stato da parte di alcuni membri del partito sandinista, in particolare Danilo Ortega. E quindi questa è una riflessione che vorrei capire che cosa ha detto in questi ultimi 25 anni, cosa ha fatto il resto del partito di fronte a questa privatizzazione che veniva portata avanti, se privatizzazione si può chiamare. L'altro discorso è qual è l'alternativa. Tutti noi abbiamo difficoltà a trovare delle alternative, nel senso di dire oggi qual è il modello di sviluppo che noi vorremmo preferire nei nostri paesi rispetto al potere prevalente, no? Ecco, vorrei capire, Nicaragua ha 7 milioni di persone, ha vissuto fasi storiche diciamo diverse negli ultimi 50 anni, qual è un modello di sviluppo diverso rispetto a quello che ha proposto Somoza prima e poi Danilo Ortega dopo, che può indurre la popolazione a trovare un modello di democrazia anche diverso rispetto a quello che c'era. Raccogliamo ancora qualche domanda? Sì. Penso di condividere per tutto quello che ho sentito a Nicaragua in questi anni, tutte le osservazioni fatte da Patrizio, penso che è una storia che è fin troppo lunga e si aspettava prima o poi. Quello che mi importava sapere per il futuro, qual è la probabilità che anche soltanto delle raccomandazioni di buon senso della Commissione Interamericana possano avere un peso, essere presentate per fare qualcosa di questa pressione internazionale? Nicaragua è stato praticamente escluso stato di presentare almeno la dichiarazione della Commissione Interamericana come richiesta formale di attenzione perlomeno alla Mogherini in Europa, visto tutta la storia di cooperanti italiani che ha lavorato in questo senso, qui dovrebbe essere qualcosa che almeno mette, cioè fa entrare il Nicaragua non soltanto sul manifesto, ma da qualche parte, se no compaiono 7 righe sul sole di domenica, che ci hanno detto che ci sono stati dei morti in Nicaragua, perché mi sembra che proprio sia scomparso che gli Stati Uniti si interessino ai normali, tutta la parte che ha cooperato così tanto con il Nicaragua, che non ci sia nemmeno un tentativo di presa di parola, anche soltanto per appoggiare questa fermata della violenza che andrà avanti e per favorire la presenza internazionale. Poi io non penso che sia un modello di sviluppo in questo momento, qui ci vuole del tempo e creare delle condizioni internazionali. La presa di parola da parte dell'Italia o dell'Unione Europea in genere? O dell'Unione Europea, l'Italia magari, però con aree che l'Italia non so nemmeno se sanno dove è Nicaragua, no, sì. Però c'è ambasciata, c'è ambasciata. Le ambasciate non si tolgono mai, se non quando si tenta di entrare con l'Egitto, ma poi le rimettono. E prima sono venuto per capire da diversi anni, non avevo più sentito quello che succedeva. Un po' la voce. Sì, dicevo che sono venuto per capire quello che succede, perché da diversi anni non seguivo più le vicende nicaragüensi. Però devo dire che no. Allora vorrei approfondire un pochino. Dunque, stabilito che c'è un cattivo, vorrei capire fino a che punto è tutta colpa di questo cattivo o se c'è qualche altro cattivo accanto che noi non abbiamo nominato. Perché mi sfugge, per esempio, la quasi automatica conseguenza di una crisi economica, sociale e di molti ammazzati. A me viene in mente, a noi molto vicino, quello che è successo alla Grecia qualche anno fa, un crollo delle condizioni sociali pazzesco, non mi pare che ci sia stato questo poi come conseguenza, ci deve essere altro. Poi, ecco, per esempio, l'accenno fatto all'episodio della foresta che va in poco. Il governo non interviene, perché non mi convince il discorso del perché doveva nascondere che tagliava altra legna, perché è contraddittorio. Se doveva ricavare il reddito dal taglio della legna, mi conveniva spegnerlo. Non è che l'incendio distruggeva delle prove, se c'erano le prove già si conosceva un punto e basta. È una cosa che mi sfugge. Poi un movimento sandinista che non poteva essere semplicemente un gruppo di rivoluzionari che prende il potere. Questo poteva essere al momento in cui cade Somoza, ma poi questo movimento resiste a anni e anni di contras pazzesco, con il minamento dei porti da parte degli Stati d'America. Quindi era un movimento di popolo. Che fine ha fatto? Improvvisamente resta solo il cattivo. Non mi quadra. Poi però qualcosa, una lampadina mi si è accesa quando tu citavi l'accordo con la Cina per la costruzione del canale, e grazie al cavolo, scusate, ma il canale chi lo voleva costruire? Era un secolo che ci pensavano. Walker, la prima intervento degli Marines ha mandato in Nicaragua nel 1856. Quello Sandino, ritiriamo in ballo Sandino, insomma. E poi torna a essere uno degli elementi prioritari della politica statunitense, non forse del cortile di casa, quando Panama, quando deve cedere l'affitto di Panama. Quindi anche se cerca di controllare lo Stato Panama, però formalmente non è più lui che gestisce, non sono più gli Stati d'America che gestiscono il canale. E dato che il collegamento tra le due sponde degli Stati d'America è fondamentale per loro, è tornato in auge il discorso del canale nicaragüense, che attenzione, non è poi più difficile il canale Panama. Panama fu scelto perché era più corto, però ho dovuto affrontare tutta la scalata e la discesa, le chiuse. Che io sappia, il percorso del canale molto più lungo di Granada è il mio vantaggio di non avere chiuse, o di averle in misura limitata, ma credo di non averle per niente. Quindi è raggiunta con l'attraversamento dell'acqua, quindi si fa. Però io mi pongo la domanda, quando sento che, per esempio, sono andato a vedere su internet, su Google, la storia, cosa mi metteva su tutti gli avvenimenti del Nicaragua, e mi sono trovato il problema, la cosa orrenda della famiglia distrutta con l'incendio. Però mi sono trovato l'agenzia stampa dell'ANSA, comunicato stampa dell'ANSA, che diceva che sembrava che c'era stato questo episodio, la morte delle persone, sembrava che ci fosse, sembrava che ci siano stati, che siano stati gli autori, siano stati un gruppo non identificabile, perché tra l'altro anche mascherati, eccetera, eccetera, forse dei paramilitari, tutto forse. Poi in un altro, ho cliccato su un filmato, appare l'intervista ad un uomo che si viene presentato come vicino di casa, il quale dice: è stata la polizia che ha sparato e ha bruciato, e la prova è questa, tira fuori un bossolo di fucile, non è la prova di, cioè, non prova niente. Quindi c'è una situazione strana. Allora mi chiedo, tra il buono e il cattivo, ma forse ci si mette ogni tanto di mezzo un altro che vuole che la distanza aumenti, quello diventi più cattivo e l'altro più buono? E questa. Ok, passa così. Ok, allora siccome ce ne sono tante, ci sono tante questioni, volete che ve le riassumo o l'avete memorizzate? Io ho preso un po' di... Ok. Vabbè, prendiamo l'ultima allora e poi diciamo rispondete. L'ultima elezione, a me pare che ci fosse stato un episodio piuttosto brutto, cioè che gli eletti dell'opposizione, per quanto l'opposizione possa non esistere, sono stati, non so come dire, esautorati dalla loro elezione, non risultano più eletti. È possibile questo? Vedete, il Partito Liberale. Vabbè, sì, mo vediamo. No, nel senso che dal punto di vista proprio anche del ripristino delle condizioni di democrazia, diciamo, una delle forme di democrazia è quella di garantire la rappresentanza plurale, cioè quindi di fare leggi con tre e comunque tre ce ne sono state. Bene, accuse di brogli ce ne sono state tante. Vabbè. Perché questo per esempio aumenta il livello di caos e di confusione. Allora Patrizio. Allora vediamo, perché è troppo ampio tutto questo, però Luigi se n'è andato via, così non devo rispondere allora. No, un po' su quello che diceva Luigi, cioè lui parlava di strategie di sviluppo di Somoza, strategia di sviluppo di Daniel, no? Ovvio che Daniel c'ha la sua strategia di sviluppo, soltanto che non gliela dice nessuno. Cioè ogni giorno te ne do una goccia e te non sai dove andiamo. Ora, il problema, questo è come la cacocrazia, che io dico, vabbè, corruzione c'è in tutto il mondo. Che novità c'è in Nicaragua che ci sia la corruzione, per carità? Il problema è che Nicaragua è un paese povero, col 40% di gente sotto la povertà, e ti stai a rubare i milioni, insomma. Ma che tu fai, insomma? Vabbè. E parli di democrazia, difensore del popolo. Scusa, te non puoi andare a fermare con i cinesi un debito eterno del Nicaragua senza fare un referendum nazionale se questa è una democrazia. Chi sei te, come ti permetti di fare quelle cose senza fare un referendum? Ecco, questo è un esempio allora della tua strategia tornata verso che cosa è democrazia e dove la stai risolvendo. Io non penso che ci sia un problema tanto di privatizzazione dello Stato, perché per esempio sì, se è privatizzata l'energia, se è privatizzato il telefono, come in tutto il mondo, però l'acqua non si è privatizzata. Quella si è difesa molto bene. Che fa lo Stato? Vabbè, diciamo che, come vi ho spiegato prima, io non penso che la faccenda della prevenzione sociale, io che sono una vittima di quello che verrà, sia stato la ragione d'essere perché gli studenti ormai gli studenti e tanta gente era stufa, perché una goccia in più non ce la faccio più. Se te sei un governo intelligente, e parte della tua strategia era devo trasformare la sicurezza sociale, ce ne sono mille forme, e da anni, 10 anni almeno, che si viene parlando in Nicaragua di già oggi incominciare a fare una scala. Prima cosa, entri in pensione a 60 anni, io ce ne ho 65, potrei lavorare. Due, perché non fai che se oggi ha 60 anni, le dici a quelli tra 58 e 60, ok ragazzi, voi andate in pensione ai 60 anni, se volete, vale? Quelli da 58, da 5 a 58 passate a 61, però te ne sto dando 3, 4, 5 anni di organizzarti. Quelli da 50 a 55 passate a 62 e ci avete 7 anni, 8 anni, 9 anni per organizzarvi. E voi sotto 50 passate da già, ve lo informo, a 67 anni, perché te ne mancano 15 anni per organizzarti, insomma. Cioè ci sono forme che vanno oltre il problema di privatizzazione o non privatizzazione. Cioè qua quello che c'è è mancanza di sensibilità, cioè mancanza di democrazia, però mancanza di sensibilità verso la popolazione, irrispetto alla popolazione, abuso sulla popolazione, e questo non si fa più. Questo è un po' per rispondere a Luigi. Sul problema del legno, ti devo informare che il più grande sfruttatore del legno in Nicaragua, miliardari, sai chi è? L'esercito. Sai come lo tirano fuori? Con gli elicotteri. Manco che ci vanno per la cattiva strada a farsi problemi di tirarlo fuori, eccetera, eccetera, così nessuno mi vede. Lì c'è un problema a Indio Miai. Loro sono stati a sfruttare quella zona, e quello che fanno, tra l'altro, per convenienza, che si bruci il più che si possa, perché questa storia mi permette di entrare per tirar fuori il legno e in mezzo. Sopra metto un po' quelli bruciati che dico sto pulendo, e sottometto quello che mi interessa. Quella storia in Nicaragua è conosciuta perché così è successo col Mitch e con l'uragano Joan. E purtroppo, quando io leggevo dei tratti della lettera di Gioconda Belli alla vicepresidentessa, io ho giusto il video di quando sono arrivati i paramilitari in 25 con 3 poliziotti, perché adesso la modalità è che la polizia non ce la fa con tutto questo casino, per cui vanno ai lumpen dei quartieri a pagarli incappucciati, e c'è il video quando sono entrati e poi quando la casa si brucia. Io non ho voluto portare pure il bambino morto, bruciato, un bambino di 5 mesi che ci stava dentro quella casa. Insomma, e mo è l'imperialismo, mo è non so chi e chi ci sta dietro tutto questo. Quello che sta succedendo, che questo caos sta comportando livelli di violenza incontenibili. Sulla domanda che facevi te, Ceci, senti, non c'ho l'informazione esatta di quello che è successo. Sì, ti posso dire che prima non succedeva e è incominciato a succedere, e può darsi che il Partito Liberale di Alemán faccia la modalità del Frente Sandinista, tanto stanno così, sono amici, in business, in politica, in tutto. La verità è che ci sono intorno ai 70 deputati del Frente, almeno 10 sono degli aliati, stanno lì per prendere un pochetto di un posticino, perché anch'io voglio il posticino, no? Se sono amico tuo mi dai un posticino. E vanno lì, metti una decina. Negli ultimi 5 anni il Frente ha cacciato, stando nel periodo eletti, secondo il Frente democraticamente anche i propri, hanno cacciato almeno 5. Può darsi che il Partito Liberale di Alemán ne fa la stessa politica, non lo so. E sì, per quello io dico, il processo elettorale non è una cosa che te mi dici, ti caccio a te via e fra 6 mesi bello faccio elezioni. Ma non esiste, io non ci vedo in 6 mesi elezioni. Manco andrei a votare perché non ci crederei. Cioè ci vuole almeno un anno di lavoro per costruire le strutture e permettere ai partiti politici fare il loro lavoro, registrarsi, organizzarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque la cosa urgente mi pare di capire che se ne vada, vabbè, è la terza opzione, insomma. Giorgio, vuoi dire qualcosa? No, io rispetto a quello che per esempio anche diceva su dove stanno i sandinisti, no? Domandava quelli che nel 79 hanno appoggiato la rivoluzione e tanti. Io credo che appunto alcuni si sono così ritirati, e c'è certamente una responsabilità anche dei dirigenti che quelli che era la dirigenza sandinista si sono un po' prima hanno fondato forse una opposizione, ma poi un po' si sono piano piano ritirati. Ma già già negli anni 84, 83, 84, quando è iniziata la contra, l'invasione, uno degli, che fu Ortega che istituì il servizio militare obbligatorio, non so se vi ricordate, che fu uno dei primi errori di mandare questi ragazzi a morire per alla frontiera. Però i suoi non le mando mai. E lì le madri, ma io mi ricordo per questo, queste stesse madri che adesso, le madri del 19 di aprile, che così si chiama, cioè hanno iniziato a un distaccamento da quella che era la realtà, a vivere la sua realtà è così che nel suo mondo. Già questa cosa del hanno cominciato ad avere l'opposizione interna, per questo poi vabbè il 90 ha perso le sue, perché la gente non voleva più vedere i propri, la guerra, i propri figli morire alla frontiera con l'Honduras. Però sostanzialmente c'è una responsabilità anche di quelli che sono stati i quadri del Frente originari, che hanno come lasciato che Ortega prendesse tutto il potere lui. Secondo me... Ma se l'ho preso senza chiedertelo. No, però si poteva creare un'opposizione più... Probabilmente non lo so, io non sono lì, non sono nicaragüense, no? non so quello che poteva succedere, però mi immagino che adesso le cose, non lo so se c'è questa via di mezzo, secondo me non vedo una possibilità. Si sta talmente radicalizzata la situazione, ma per chi l'ha radicalizzata? Chi è la colpa? È Ortega, non è che non ci sono qua scuse, chi ha iniziato è responsabile, bisogna dirgli nome e cognome, Daniel Ortega e la Rosario Murillo. Perché se no poi uno può mediatizzare tutto, però c'è certa cosa. Però secondo me chi ha iniziato? E poi la situazione sta degenerando, si sta scappando delle mani, perché è vero, ci sono stati anche, ed è condannabile, ci sono stati due militanti sandinisti cioè che attaccavano le barricade, che sono stati ammazzati e bruciati. E quello è condannabile e bisogna... Però la casa, comunque ci sono le testimonianze che è stata bruciata dai paramilitari e dalla polizia. Ma perché poi quegli altri bruciano una casa sandinista magari? Cioè c'è un odio, una cosa che è scappata dalle situazioni. Per questo il dialogo che si sta cercando avanzare la Chiesa è fondamentale e bisogna però la richiesta della popolazione nicaragüense è che se vaia Ortega. Quella è anche della popolazione sandinista cioè della popolazione generale del Nicaragua. Io non più dico sandinista. Allora, due battute finali. Qui ci sono dei materiali che potete prendere prima di andar via. Poi c'è un'ultima domanda molto rapida e io chiedo anche il ruolo, secondo voi il ruolo degli Stati Uniti, se ce l'hanno, ma è difficile che in Centro America ci possa essere qualcosa che sfugga al controllo degli Stati Uniti. Quando siamo andati con Patrizio 12-13 anni fa a vedere degli altri che erano stati comandanti così, io sono uscito perplesso perché la cosa è stata, ce ne dovevamo accorgere prima e non ce ne siamo accorti. Cioè Ortega è la parte finale di un cammino che è iniziato quasi 40 anni fa, non per ovvie ragioni, perché subito dopo la rivoluzione eravamo tutti inebriati, perché è cominciata la campagna di alfabetizzazione per cui l'alfabetismo è stato derrotato e è arrivato a livello europeo. Poi è cominciata la contra, ma la contra è cominciata esattamente quando sono rimasti solamente l'anima trotskista del sandinismo. Sandinismo che tutti quanti abbiamo fin da prima, nel luglio del 79, perché Patrizio a quell'epoca era rappresentante del Frente d'Italia. Che cos'era? Era un insieme di forze completamente diverse. E questo che ha vinto tutti e ha insegnato a noi l'arte del dialogo davanti a delle sfide enormi. Questo poi, per ovvie ragioni storiche, quelle che abbiamo detto, ci ha messo tanto, ma è culminato nella pugnata. Quanti dei nostri amici sono stati emarginati dal Frente, se ne sono andati via perché non hanno accettato di intestarsi le proprietà, come proprietà, quelle che erano dello Stato. Beh, mia sorella per incominciare. Tua sorella, ma José Antonio Sanchinés l'hanno cacciato via e l'hanno mandato di osservatore militare a Cuba. Cioè, per concludere voglio dire, una cosa che viene da lontano, e l'insegnamento per noi, tutti quanti nella vita concreta che abbiamo nel paese di ciascuno, è che bisogna stare molto attenti, perché le piccole gocce vanno, e poi ti trovi una cosa che è quello che sta succedendo adesso. E poi ultima cosa, l'unico giornale che ogni giorno c'ha su Nicaragua l'Osservatore Romano. Ogni giorno. Ma lui è il proprietario, bisogna dirlo. Una risposta rapidissima. No, c'è. È al volo perché dobbiamo chiudere. Siamo stati al Vaticano, siamo stati il 30 di maggio, noi ci siamo vestiti di nero, come in maniera di dare conforto alle madri del Nicaragua che stanno in lutto. Anche noi eravamo in lutto, di solito festeggiamo, ma quest'anno non abbiamo fatto niente. Sì, quindi voglio dire che mi sa che la prima volta pure noi, le persone che siamo in Europa, è la prima volta che ci uniamo anche noi. Perché a noi ci addolora il cuore vedere tutti questi ragazzi di 14-15 anni, il primo Alvaro Corrado, lui stava portando dell'acqua agli studenti, cioè non è possibile che una pallottola ti colpisce e muori a quell'età. Per un cecchino. Sì, infatti, questo è il problema più grande, che loro continuano a dire che non è vero, che non è vero. Siamo nel 2018 dove col telefonino tu puoi fare mille dei film, non siamo più nell'80, nel 70, cioè voglio dire, questo va proprio lì, datato, pure quella la casta che hanno bruciato si è visto, che erano loro che giravano, eppure c'è una ragazza superstite che lei ha detto, e il governo ha pure incontrato direttamente la mia Ortega, ha detto, avete ammazzato la mia famiglia, cioè lei, perché è morto suo padre, sua madre, sono morti tutti, dice lei, i miei nipotini. Voglio dire, loro non possono dire non vogliono tappare il sole come diciamo noi col dito, non è possibile. Cioè oramai questo non si può più fare, quindi pure noi chiediamo che loro abbandonino il potere, non lo so. Poi tra l'altro non vogliamo più né liberali né sandinisti, vogliamo un nuovo partito pulito e speriamo anzi, se è possibile. Se è possibile però qualcuno che non venga più da dietro, una forza nuova. Qualcuno di nuovo che abbia le idee chiare, è quello che il popolo nicaragüense vorrebbe. Grazie. Vabbè, su quello che diceva Enrico, sì, è complesso. Cioè, per quello parlare di, quando mi fanno la domanda, gente che è stata molto legata al Nicaragua, che non erano orteghiste, ancora sono scioccati e chiedono, ma come si è dato questo cambio? Ma scusa, Pinco Pallino, te sei stato negli 84-5 volte in Nicaragua e che non hai visto quello che succedeva. Succedevano delle cose come parlava Enrico. Purtroppo, in quei tempi, uno messo con la testa lì dentro, alla fine dici, beh, casi isolati, non dico la parola, quando nel 90 c'è la pignata, casi isolati, con la pignata la decenza del Frente Sandinista, la gente decente se n'è andata. L'Assemblea Sandinista, che c'era 120 quadri, se ne sono andati almeno 40 immediatamente, perché non volevano essere copartecipe della cleptocrazia. Gradualmente, nei 90, quando il Frente fa l'alleanza con Arnoldo Alemán, quello del Partito Liberale, per dire una volta te, una volta io, se ne sono andati altri che hanno già capito che questo andava male. E poi, dal 2006 a oggi, già nel governo, c'è l'elenco di quelle cose che vi ho detto, che questo non è niente, ne mancano altri 20 da fare dentro il potere dello Stato. Basicamente quello, insomma. E gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti, al mio modo di vedere almeno, cioè, Nicaragua è così, no? Gli interessa un tubo. Però gli è interessato l'Honduras. Uno, due. Sì, però l'Honduras è un'altra cosa, ci sono interessi creati, insomma. Adesso il Nicaragua c'ha la Russia con i cannoni, che un giorno di questi vengono i carri armati per strada che li hanno comprato alla Russia, tra l'altro, e con la Cina, il famoso canale e altre cose da fare. Secondo me la politica attuale degli Stati Uniti, dopo Afghanistan, Iraq, eccetera, guarda, che si ammazzino tra di loro, quando si sono ammazzati poi arrivo io. Basta. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie a tutte. Grazie a tutte e a tutti. Trasmette. Qua c'è materiale per chi vuole. Ciao, grazie. Ciao, grazie. C'è, tutti sono diversi, tutti sono diversi. Ha preso. Senti, questo telefono di chi è? No, quello è registrato. Però poi me lo passo. Non se vaya. Ciao padre. Ti saluto tanto, tanto piacere di averti conosciuto. Buon tutto, molto bene. Prendi contatti direttamente. Ecco, un attimo, ce l'ho, ma c'ho talmente tante cose che non ho fatto. Questi non li penso anche Senta, adesso non so dove la cosa, Voi domani partite, ma tu fai il tour. Sì. Dai, qua ancora. Non so se è